Ti chiedo scusa, ho perso il conto delle mie bugie. Se mi ascolti non pensare sia uno stronzo, anzi non pensare che siano solo mie. Mentre ti parlo tu non mi vuoi rispondere. Non son geloso, è stato il vino. Se ho fatto a pugni con quel tipo. Mentre ti parlo tu non mi puoi rispondere. Le mani contro il finestrino, le scambio per il paradiso. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Sei il sole visto da vicino, un fuoco che mi brucia vivo. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Sei il cielo nero di Berlino, sei quella che mi tiene vivo. No, non c'è, no, non c'è nulla da sentire oltre le urla. Io da te, tu da me. Scusa, casa mia sembra una giungla. Tutto è cominciato così. Ci siamo innamorati così. Ci spogliavamo nascosti, le strade chiuse, nelle strade chiuse. Scusami se sono fuori, io che ad ogni sbaglio ti porto dei fiori. Che non ho più scuse per dirti rimani. Che ho solo paura di alzarmi domani. Ma senza di te, senza di te, mentre ti parlo tu non mi puoi rispondere. E quel profumo sul cuscino lo scambio per il paradiso. Sì. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Sei il sole visto da vicino, un fuoco che mi brucia vivo. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Sei il cielo nero di Berlino, sei quella che mi tiene vivo. Senza te l'aria gelida. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Se il sole visto da vicino, un fuoco che mi brucia vivo. Mentre ti guardo tu.